guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Guardie o Ladri. Subito l'indirizzo al quale scrivere: guardieoladri@radio24.it, e il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, si chiama appunto Guardie o Ladri. Oppure, se volete, se preferite, potete digitare su Google robertogalullo.blog. Il sole 24 ore.com. Allora, oggi affrontiamo un tema che in questi 2 anni di trasmissione non avevo mai affrontato, ma è un aspetto non secondario degli appetiti delle cosche, delle mafie, e lo dico sempre al plurale, per fare che cosa? Business, quattrini, perché le mafie vanno laddove c'è da investire, dove c'è da fare business, vale a dire parliamo oggi di criminalità organizzata e patrimonio artistico ed archeologico. Perché lo facciamo ora? Perché c'è appena stata un'interessantissima conferenza internazionale in Val d'Aosta, proprio che aveva come titolo quello che vi ho appena detto: criminalità organizzata e tutela del patrimonio artistico ed archeologico. 3 giorni di incontri a Courmayeur, splendida località sciistica, questo lo sappiamo, ma anche appunto una città che ospita temi di riflessione così profonda come quello che vi propongo questa sera. E per parlarne ho degli ospiti veramente di livello. Per capire un po' qual è la situazione in Italia, io direi di dare per primo la parola al primo ospite, appunto, che non è al debutto nella mia trasmissione, perché già nel passato è stato con noi, ed è Antonio Percolizzi, che per Legambiente, il rapporto che annualmente Legambiente propone, cura proprio questa parte. Buonasera Percolizzi. Buonasera a voi. Allora, qual è la situazione in Italia alla luce del vostro rapporto? Quanto speculano le mafie in questi traffici internazionali del patrimonio artistico del nostro paese? I dati, che sono poi quelli del Comando Tutela Patrimonio Culturale, raccontano di un patrimonio storico, architettonico, culturale sotto scacco della criminalità organizzata e non solo. Pensate che soltanto nel 2007 sono state accertate ben 1800 furti di opere d'arte, ci sono stati più di 16.000 oggetti trafugati, più di 1400 persone indagate, 123 persone arrestate, quindi un'attività molto forte che anno dopo anno racconta appunto di un patrimonio storico, culturale, che viene sistematicamente depredato da parte di una variegata tipologia di soggetti, che comprendono sia le cosiddette mafie, ma spesso anche i soggetti che non hanno niente a che vedere con le mafie, ma che entrano in questo business a vario assolutamente tipo, che depauperano il nostro patrimonio. Percolizzi, ma è possibile quantificare anche dal punto di vista economico il giro d'affari per chi vive e campa di questo traffico? Ecco, questo è un dato che non siamo mai riusciti a ottenere e a capire, e questo ce lo possono anche raccontare e confermare i carabinieri appunto che si occupano di questi reati. Non riusciamo a quantificare dal punto di vista monetario il business proprio dell'archeomafia, un dato che ci sfugge, perché è assolutamente difficile capire il valore di ciascun bene trafugato, di ciascun bene che viene trafficato, e quanto effettivamente poi questi criminali intascano. Sicuramente ci dicono il Comando Patrimonio Culturale che si parla di un business che è solo il secondo soltanto ai traffici di droga. Ecco, questo qui è importantissimo sottolinearlo. Perché? Perché il traffico di droga è il principale business, un traffico pressoché in mano, non dico nel monopolio, ma ci siamo quasi, dell''ndrangheta, grazie ai cartelli, soprattutto con i narcos colombiani, e quindi non è da sottovalutare questo business invece sul patrimonio artistico, che è difficile quantificare, anche perché è talvolta impossibile dare un valore ad opere d'arte inestimabili. Ma Percolizzi ha chiamato in causa i carabinieri, e noi abbiamo il piacere di avere questa sera collegato con noi il generale Giovanni Nistri, che è proprio il comandante a capo del nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri. Buonasera generale Nistri. Buonasera a lei. Allora, quello che colpisce tra le cose dette da Pergolizzi è questo numero, 1800 furti di opere d'arte che si sommano le altre migliaia dell'anno precedente e così via in una catena purtroppo devastante. Dato atto ai carabinieri e alle altre forze dell'ordine del grandissimo impegno che viene profuso per recuperare buona parte di questo patrimonio, le chiedo, generale, queste opere d'arte trafugate avvengono in maniera mirata, scientifica, su commissione oppure no? E secondariamente le chiedo su quali rotte poi viaggiano queste opere d'arte trafugate? Sì, beh, intanto c'è da dire che fortunatamente negli ultimi anni stiamo assistendo a un decremento statistico anche abbastanza rilevante per quanto concerne i furti. Lo scorso anno abbiamo registrato circa un 10% in meno, quest'anno più o meno il trend è analogo, ma c'è da dire anche che nel numero complessivo rientrano oggetti che per la normativa sono considerati beni culturali, ma non bisogna pensare che siano 19.000 opere d'arte capolavori, questo è bello sottolineare. Ora, per quanto concerne un po' il furto, ecco, perché di questo stiamo parlando, perché sullo scavo clandestino il tutto diventa più evanescente, certo. Infatti lo scavo clandestino si può conoscere solo nel momento in cui viene accertato o nel momento in cui si rinviene il provento dello scavo stesso. Comunque, insomma, diciamo che i furti fondamentalmente sono compiuti da tre tipologie, sempre per andare per grandi numeri e per grandi settori. Sicuramente esistono dei gruppi criminali specializzati nel furti, per esempio gruppi criminali specializzati nei furti nelle chiese, che sono un obiettivo molto remunerativo e anche molto di facile aggressibilità, perché ovviamente sono sparse su tutto il territorio nazionale. Poi ci sono anche i singoli individui che magari compiono furti per la sopravvivenza quotidiana, per assicurarsi la dose di stupefacente e quant'altro. In più vi sono poi appartenenti ad etnie che sono proprio dediche ad attività illegali, tra i quali anche i furti, che sono comunque in questo settore abbastanza remunerativi. Ora, quindi non parlerei tanto di furti mirati su commissione, sicuramente esistono anche questi tipi di furti esistono, ma direi quasi che sono una nicchia. Quindi è una tipologia tra le altre. Sì, una tipologia nemmeno forse la più pesante in termini quantitativi. Certo. Parlerei invece di gruppi che si strutturano proprio per compiere furti e per poi avere i proventi di questi furti. Lei mi parlava di rotte. Beh, le rotte sono le più disparate, perché si tratta sia di rotte interne, sicuramente furti compiuti per esempio in Piemonte, gli oggetti possono essere rivenduti a distanza anche di poco tempo, per esempio nelle Marche. Adesso cito due regioni, certo, assolutamente a casa, tanto per dire, c'è proprio una specie di piccolo cabotaggio che si interessa, una volta acquisita la merce, poi di rivenderla, di diffonderla e di rivenderla appena possibile. Quindi diciamo c'è un mercato domestico in questo caso. Direi proprio di sì, ma insieme con il reato domestico, soprattutto per quanto concerne poi pezzi di maggior pregio, e beh, lì allora andiamo anche nel mercato non domestico, nel mercato internazionale, dove abbiamo grandi rapporti con i nostri colleghi d'Oltralpe, per esempio, piuttosto che in Spagna o in Svizzera e in altri paesi, e spesso si sviluppano operazioni congiunte anche per singoli pezzi. Un esempio: recentemente con i colleghi dell'OCBC francese abbiamo recuperato una bellissima croce reliquiaria in avorio che era stata sottratta alla cattedrale di Canosa di Puglia una ventina di anni fa. Quindi, a fronte dell'oggetto rubato, diciamo, in Italia, che riemerge poco dopo sempre, ma in Italia ci sono anche oggetti, beni culturali di assoluto maggior valore, che riemergono anche a distanza di molti anni. Ecco, generale, volevo farle una domanda prima di interromperci, abbiamo un minuto prima di interromperci per le informazioni sul traffico. Le chiedo, ma a suo giudizio c'è sensibilità dei cittadini italiani nei confronti di questo tipo di reato? Perché la mia sensazione è che si tenda a sottovalutarlo. Ma la sensibilità c'è, nella misura in cui una grande parte, una grossa percentuale dei furti avviene in abitazioni private, e non c'è nulla di più aggressivo del subire un furto in casa propria. Certo. Quindi sotto questo profilo c'è. Questa cosa è meno avvertita per quanto concerne, per esempio, i furti nelle chiese, che sono l'altro grandissimo obiettivo. E per il resto, in realtà, non ci sono poi così altre categorie così colpite. I colpite furti nei musei sono ridotti assolutamente. Certo, anche perché ovviamente i tipi di tutela sono diversi. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto, chi vi parla è Roberto Galullo, siamo su Guardie o Ladri. Come tutti i sabati da 2 anni a questa parte, alle 19.30, stiamo parlando delle mani della criminalità organizzata o meno sul nostro patrimonio artistico, il patrimonio artistico italiano. Parliamo quindi di furti di opere d'arte, di furti che avvengono nelle case, nei privati, presso i privati o che avvengono presso le chiese. Più raramente, ci diceva il generale Giovanni Nistri, a capo del nucleo di tutela del patrimonio culturale dei carabinieri, nei musei, perché chiaramente le tutele sono ben diverse. Dopo aver sentito il generale Nistri e Antonio Pergolizzi di Legambiente, ci rivolgiamo ad un altro ospite che abbiamo già avuto nel passato, quindi ho il piacere di riaverlo con noi, ed è il sostituto procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Buonasera Melillo. Buonasera a lei. Allora, abbiamo sentito che la mafia, ma non solo, le mafie, ma non solo, allungano le loro manine sul patrimonio artistico e ne ricavano dunque un business. Ma lei, che è in Procura Nazionale Antimafia, per quello che è questo squarcio che ci interessa, vale a dire le mani della mafia sul patrimonio artistico, che cosa ha da dire ai nostri radioascoltatori? Qual è il suo tipo di valutazione anche alla luce della sua relazione recentemente tenuta, lo dicevamo in inizio di puntata, a questa conferenza internazionale che c'è appena stata a Courmayeur? Intanto occorre ricordare che la mafia, Cosa Nostra in particolare, ha allungato le mani sul patrimonio artistico del nostro paese in maniera anche drammatica. Basta ricordare gli attentati di Firenze, di Roma e di Milano del 1993. E ha fatto benissimo a ricordarlo. Credo che occorra ricordarlo perché dimostra la consapevolezza che le organizzazioni criminali hanno del valore fondamentale di questi beni per la stessa stabilità delle istituzioni democratiche, per il senso di identità, di appartenenza ad una comunità nazionale. Detto ciò, occorre considerare che le organizzazioni criminali e quelle prettamente mafiose giocano sicuramente un ruolo importante in questa materia, sia attraverso il controllo di alcune delle attività delittuose a fini predatori. È difficile ad esempio pensare che il saccheggio di siti archeologici nelle regioni dell'Italia avvenga al di fuori del controllo dei gruppi mafiosi che esercitano le loro attività criminali in quel territorio. Occorre altresì tener conto che questo è un settore nel quale si giocano anche interessi criminali di tipo diverso. Le opere d'arte e le opere di interesse archeologico possono essere anche uno straordinario veicolo di riciclaggio e reinvestimento speculativo dei proventi di altri traffici criminali. E questo effettivamente è vero e apre una luce nuova sulla nostra riflessione, vale a dire i milioni, i miliardi che si hanno a disposizione, che queste mafie hanno a disposizione, in qualche modo vanno anche reinvestite. E cosa c'è di meglio che pavoneggiarsi con una bella opera d'arte? Sicuramente uno strumento speculativo, no? Ma probabilmente c'è anche la vanità di questo o di quello, ma il dato è più interessante dal punto di vista delle dinamiche dei fenomeni criminali. Ecco Melillo, lei è d'accordo con l'analisi di Nistri, suppongo di sì, del generale Nistri, sul mercato prettamente domestico del traffico illecito di queste opere? L'analisi generale Nistri è senza dubbio corretta. Non di meno io credo che sia importante sottolineare come le attività criminali che si svolgono in questo ambito rivelino sempre più connessioni profonde con le pulsioni illegali dei mercati che si svolgono svolgono alla luce del sole. Credo che questo sia uno dei terreni nei quali ci sia bisogno di regole di condotta anche deontologica più stringenti e più effettive da parte degli operatori privati. Certo. E credo anche che occorra fare una riflessione profonda, che il convegno organizzato dal Centro Nazionale di Difesa Sociale ha avviato, una riflessione più profonda sull'adeguatezza degli strumenti normativi a nostra disposizione per il contrasto di questo fenomeno criminale. Ecco, io la interrompo un attimo, Melillo, perché a questo punto abbiamo cominciato ad aprirci ad una visione internazionale. E per questo do il buonasera al magistrato Rosario Aitala, che è esperto di criminalità organizzata internazionale, nonché consulente del Ministero degli Esteri. Buonasera Aitala. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, quali sono le sue riflessioni su quello che finora abbiamo detto? Ma guardi, io posso, in aggiunta alle considerazioni assolutamente ineccepibili dei colleghi che si sono appena svolte, proporre una visione geopolitica. Assolutamente. La criminalità organizzata, come lei ben sa, visto che dirige questa trasmissione da un paio di anni, si muove secondo delle rotte che seguono i regimi politici falliti, le guerre, i conflitti, la povertà, il sottosviluppo economico e sociale. Questo avviene regolarmente, avviene assolutamente anche nel caso di questi particolari beni di cui ci occupiamo oggi, di cui lei ha deciso di occuparsi in questa trasmissione. Non a caso, anche nel convegno, i due paesi dei quali abbiamo parlato più a fondo sono l'Afghanistan e l'Iraq. Ecco, e lei su questo ha uno sguardo, un osservatorio particolarmente privilegiato. Ecco, lì la situazione qual è? Ma guardi, io mi riferisco soprattutto all'Afghanistan. Perché viaggio regolarmente in Afghanistan, mentre sì, in Iraq non lo faccio. Guardi, anzitutto per la comprensione degli ascoltatori è bene ricordare che quella zona geografica che oggi conosciamo come Afghanistan, secondo una dicitura abbastanza recente, in realtà comprende delle regioni estremamente eterogenee, delle regioni tanto eterogenee per la posizione che l'Afghanistan occupa all'interno dell'Asia centrale. Per questa ragione vi sono dei reperti archeologici di importanza straordinaria che risalgono al terzo millennio prima di Cristo. E quindi appetitosi, possiamo così dire, per chi vuole farci affari, no? Costosissimi e importantissimi. Immagini che ci sono reperti assiri, persiani, greci oppure di popolazioni nomadi di quell'area. Quindi sono dei beni di valore straordinario. E a chi fanno gola, le chiedo, a Aitala, questi beni? Ma guardi, allora, in prima istanza fanno gola ovviamente ai trafficanti, alla criminalità organizzata, certo, ma anche ai cittadini che si sono dedicati a queste opere di saccheggio continuo. In definitiva, evidentemente, fanno gola agli acquirenti, quindi a noi occidentali ricchi. Ecco, ma chi gestisce questi traffici, lasciando da parte il trafficante occasionale che magari deve anche sfamare una famiglia, visto che in Afghanistan la situazione economica è tremenda? Ovviamente non lo giustifichiamo, però si può capire il perché di quell'atto criminoso. Ecco, ma invece chi gestisce in maniera, come dire, imprenditoriale il traffico, chi è? È qualcuno collegato alle mafie internazionali o è nata una mafia indigena, diciamo così? Ma guardi, ci sono diversi aspetti che si incrociano. Anzitutto bisogna precisare che i danni che l'Afghanistan ha subito al proprio patrimonio artistico e archeologico sono di due generi. Uno è puramente distruttivo, l'esempio più plateale è quello che ricorderà del 91, della distruzione della famosa statua del Buddha da parte dei Taliban. Come no, fatto esplodere, certo. Ma in realtà quello è il fatto più noto, ce ne sono di precedenti degli anni dal 91 al 92 nel corso delle guerre civili, quando sono stati recati dei danni incalcolabili, ad esempio ai Kanun, che è una città sotterranea straordinaria che si trova nel nord dell'Afghanistan. L'altro aspetto invece è quello puramente di profitto, cioè la raccolta di oggetti che può andare dall'oggetto facilmente trasportabile addirittura ai marmi, ai rivestimenti dei palazzi. Ad esempio, c'è un famoso palazzo di Massoud III che si trova a Ghazni, più o meno nei pressi di Kabul, che è stato distrutto e privato di tutti i marmi. Ecco, ma lei ha mai subodorato la puzza, perché questo si tratta di Cosa Nostra piuttosto che dell''Ndrangheta, in questi traffici? Ma guardi, io direi, do una valutazione per quello che riguarda i confini dell'Afghanistan, poi per le altre mi rimetto più al certo. Collega Merillo, che senz'altro è più competente, o al generale Nistri. Posso dirle che nel tempo ci sono stati interessi diversificati, nel senso che inizialmente, come dicevo, si trattò di semplice distruzione. Una cosa tra l'altro che va in contrasto con la cultura afghana, che è sempre stata di grande rispetto per questi manufatti. In seguito, quando si capì che potevano avere un grande valore, cominciarono a essere trafugati. Lei ad esempio immagini che nel 91-92 a Mirzak, nel sud-est, fu ritrovato un tesoro di circa 550.000 monete, è il tesoro più grande che si conosca nella storia dell'archeologia. E che è stato completamente trafugato, esatto. Nemmeno una moneta. Queste monete sono andate per tutto il mondo. L'elemento che voglio segnalarle è che noi riteniamo oggi che il traffico di oggetti d'arte e di oggetti archeologici rappresenti la seconda più grande fonte di introito per le mafie, ma anche per l'insorgenza. Quindi i Taliban e i diversi gruppi che si oppongono al regime di Karzai si finanziano con l'eroina in prima istanza, ma anche in seconda istanza con i profitti di questo traffico. Bene Aitale, io la ringrazio per lo sguardo internazionale che ci ha proposto, così come ringrazio il sostituto procuratore nazionale antimafia Giovanni Melilli, il generale Giovanni Nistri dei Carabinieri e comandante dei Carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale italiano, e ringrazio Antonio Pergolizzi infine di Legambiente. Un grazie in regia va dato ovviamente anche a Pietro Lacorte, in studio a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri.